oggi abbiamo ufficialmente aperto lo sportello internazionale di Cuore Denari, per cui dopo Daniel, che ci ha scritto da Francoforte, è il turno di Alistair, che ci scrive da Londra, cara la mia Nicoletta. E ieri un'amica dalle Seychelles. Eccoti qua. Ah no, questa me l'ero persa ieri, sì. Mi sono dimenticata. Posso chiedere se è vero che mangiando carote, una T, Alistair, carote ogni giorno per 2 mesi ti dà più protezione dal sole? Mia moglie dice che divento più giallo e basta. Ne ha messe 2 T perché ne mangia tante. Esatto, su, come Bugs Bunny. Ci diventa Bugs Bunny il nostro ascoltatore o che altro? E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eh sì, sono tanti che vorrebbero cantarla la canzone dei 7 nani, tanti che a lavorare vorrebbero andarci, anche se è lunedì e scherziamo sul fatto che vorremmo che il weekend durasse ancora e preferiremmo stare a casa e dormire ancora un pochino. Sappiamo invece che c'è ben poco da scherzare su questo argomento e tanti sarebbero ben contenti di uscire di casa per recarsi su un posto di lavoro, mentre i posti di lavoro nel nostro paese cominciano a scarseggiare. E come? Lo dicono anche gli ultimi dati Istat, la disoccupazione in Italia al 13,6%, ai massimi dal 77, quando sono iniziate le rilevazioni. Poi c'è il dato dei giovani, sì, che è assolutamente sconfortante: la disoccupazione giovanile al 46%, quasi la metà dei ragazzi tra i 15 e i 24 anni non lavorano. Speriamo che almeno l'estate, con la stagione turistica, possa portare qualche opportunità e magari tamponare una situazione che per qualcuno è un vero e proprio dramma familiare oltre che personale. Oggi, come avrete capito, avete sentito anche nelle anticipazioni del GR, parliamo di lavoro e lo facciamo in occasione dell'uscita con il Sole 24 Ore della guida Jobs Act, come cambia il lavoro, che spiega tutte le iniziative già prese con la prima fase del pacchetto che porta la firma del ministro del lavoro Giuliano Poletti, in attesa che si vada alla fase 2. Parleremo dei contratti a termine, di quella che è stata battezzata la flessibilità buona e delle aspettative che ci sono rispetto alle novità che stanno entrando a regime. E allora 800 24 00 24, raccontateci, Nicoletta, in che situazione lavorativa siete. Sì, come la definireste, ad esempio, in una parola? Raccontateci anche qual è la vostra difficoltà, in particolare in materia di contratti di lavoro. Oggi ci concentreremo su questo. E poi vi è stato proposto un contratto che non vi è chiaro? Siete piccoli imprenditori, cercate forza lavoro, ma con i tanti cambiamenti normative avete le idee confuse sugli strumenti da scegliere per assumere? Approfitteremo anche del fatto che siamo al 9 giugno per fare un commento sui contratti per lavoratori stagionali e i contratti per le sostituzioni in caso di ferie da smaltire, ma parleremo anche delle ripercussioni che la difficile situazione che stiamo attraversando e che tanti vivono sul proprio posto di lavoro può avere su di noi, con tanti aspetti della nostra vita, sui tanti aspetti della nostra vita. E quindi, come sempre, il nostro punto di vista è Cuore e Denari. Sì, parleremo anche di chi il lavoro ce l'ha, per fortuna, e del lavoro e del suo rapporto con il lavoro. Vuole fare un bilancio, secondo l'ultima indagine dell'Eurobarometro, il 73% degli italiani reputa negative le proprie condizioni di lavoro e l'85% ritiene che siano peggiorate con la crisi negli ultimi 5 anni. E allora, vi riconoscete in questi dati? Vi invitiamo a mettervi in contatto con noi, perché nella seconda parte del programma analizzeremo insieme ai nostri esperti le cause di questa insoddisfazione e cercheremo di capire quanto il nostro atteggiamento nei confronti del lavoro sia responsabile di quel malessere diffuso che spesso etichettiamo, e credo anche in modo un po' troppo semplicistico, con ho l'ansia, sono stressato, ma che, anche se sembra uno scioglilingua, vi invitiamo a riflettere se è ansia da stress o stress da ansia. Sulle pagine di Cuore Denari potete trovare un test che vi aiuta a farlo, quindi andate sulla nostra pagina, provate a fare il test, ma se non avete tempo continuate a seguirci, perché i nostri esperti saranno a vostra disposizione per aiutarvi a capire di più. Noi mercoledì immaginiamo di intervenire sul Jobs Act, sugli interventi sulla scuola, sugli interventi... La legge sul lavoro, il famoso Jobs Act, Renzi parla come Magni. Cosa vuol chiama dire? Jobs Act, Renzi? Scusi, perché lo chiama con il termine inglese? L'abbiamo chiamato Jobs Act perché abbiamo abbiamo copiato, perché ci piace copiare i democratici americani, ma lo possiamo chiamare piano lavoro. Credete che io ho fatto al Job Act di Renzi, che è una cosa un po' ridicola, di titoletti, pensierini. Lo possiamo chiamare Guendalina, possiamo chiamare in tutti i modi, l'importante è che ci mettiamo d'accordo. Mi chiedo qual è la sua concretezza, perché ripeto, in questo Jobs Act, che io ridendo chiamo Steve Jobs Act, perché è molto creativo, c'è tutta l'enciclopedia, no? Senza nemmeno avere il tempo di guardare fuori, così non vedi. Bene, sì, se ne sono dette tante fin dal primo momento. Discutevamo anche a microfoni. Non riesce neanche a dire come si pronuncia questo piano lavoro. Piano lavoro. Piano lavoro, ci piace. Tra l'altro avete sentito nel frattempo in sottofondo la terza vocina femminile che questa mattina ci farà compagnia per discutere di questo argomento. La salutiamo subito. Maria Carla De Cesari del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Ciao. Che ha coordinato insieme a molti altri colleghi proprio la guida che anticipavamo prima, che esce oggi, questo bel libro. Bricino con il colore blu prevalente, ma ce ne sono anche altri, c'è anche il verde speranza di trovare lavoro. Maria Carla ha curato anche l'introduzione al volume in edicola oggi con il Sole 24 Ore. Ricordo agli ascoltatori che devono chiederlo in edicola e costa 50 centesimi in più, così tanto per chiarezza. Tu nella tua prefazione a questo lavoro, Maria Carla, hai definito il sentiero tortuoso che porta al lavoro. Definisci così le ultime iniziative del governo? Ma sì, perché come dicevi tu all'inizio, nell'introduzione, il decreto legge che è stato convertito e che è diventato legge dal 20 di maggio. Rappresenta un po' il primo atto del piano Renzi per il lavoro. Abbiamo sentito che il ministro del lavoro Poletti è fiducioso nel fatto che entro la fine dell'anno diventi legge la seconda parte, cioè la legge delega che contiene nuove misure per il lavoro, nuove misure che vanno da una riforma degli ammortizzatori sociali ad una riforma di quelle che sono le politiche attive, quelle che veramente costituiscono forse la più grave lacuna del nostro mercato del lavoro, fino diciamo a quel contratto unico a tutele crescenti che dovrebbe in qualche modo forse superare anche il problema dell'articolo 18. Un tema molto delicato questo. Ci soffermeremo questa mattina soprattutto sulla prima parte, su tutto ciò che è entrato in vigore, come Maria Carla De Cesare ricordava, a partire dal 20 maggio, ma lo faremo anche con un altro ospite. Assolutamente, salutiamo anche Giampiero Falasca, giuso lavorista ed esperto del Sole 24 Ore. Buongiorno, che è in linea con noi, in collegamento da? Da Roma. Da Roma. È per questo che non è qua. Buongiorno. Buongiorno, avvocato Falasca. Buongiorno. Lo ricordiamo subito il suo libro? Assolutamente sì. Divieto di assumere, avvocato. Sì, grazie. Ecco, no, tra l'altro, ce lo ricorda il motivo per cui ha dato proprio questo titolo al libro? Beh sì, perché diciamo io sono convinto che il nostro ordinamento oggi manda questo messaggio a chi vuole usare il lavoro e il lavoro regolare. Cioè, dice, lasciate perdere, cercate scorciatoie che saranno tollerate di più e con meno, diciamo, con meno rigore formale. Invece oggi chi si barcamena nella strada dell'utilizzo del lavoro regolare trova mille ostacoli dall'ordine. Speriamo che questo però non costituisca un deterrente per le imprese, e speriamo che quelle che almeno possono farlo adesso, che hanno commesse importanti, quelle imprese che hanno internazionalizzato e che resistono rispetto alla crisi domestica, appunto invece superino quelle che l'avvocato Falasca definisce qualche ostacolo, appunto, e riescano a continuare ad assumere. Avvocato Falasca, per chi non avesse prestato molta attenzione al dibattito fino a questo momento, ci può fare una carrellata dei provvedimenti adottati dal primo round, dalla prima fase del Jobs Act? Esatto. E diciamo, intanto diciamo, va detto che il mio libro è stato scritto durante il Jobs Act, quindi il mio giudizio non riguarda il Jobs Act. Anzi, il Jobs Act secondo me va nella direzione di rimuovere quel divieto di assumere, perché in sostanza, diciamo, è un decreto legge e quindi, come diceva prima Maria Carla De Cesari, è la fase 1, interviene sui due contratti più importanti, due contratti regolari più importanti, il lavoro a termine e l'apprendistato. Sul lavoro a termine si fa una rivoluzione che fino ad oggi secondo me non è stata ancora neanche capita, perché è una rivoluzione copernicana, è ancora più importante di quanto pensiamo. Il vecchio contratto a termine doveva piacere al giudice, cioè scrivevo la causale, applicavo regolarmente il contratto e poi dovevo sperare che il giudice fosse convinto della giustificazione che avevo dato del contratto. La causale, altrimenti... ricordiamo che era quella giustificazione che un datore di lavoro doveva mettere sul contratto a termine e spiegare il motivo per cui appunto non si assumeva in via definitiva un lavoratore. Sì. Esatto, non costituiva nessun vero filtro contro gli abusi, ma era soltanto un elemento di totale precarietà e incertezza del rapporto di lavoro e della sua fine. Quindi molte aziende preferivano usare il lavoro a progetto o usare altre scorciatoie. Col nuovo sistema si crea una condizione di maggiore fiducia tra chi utilizza il contratto. Chi assume deve rispettare dei limiti, dei numeri. 20% dell'organico, che può essere di meno se il contratto collettivo prevede di meno, e 36 mesi massimo di durata. Quindi la riforma dà grandissima stabilità e dovrebbe ridurre il contenzioso su questo, senza far aumentare i contratti, perché c'è un limite massimo. Beh, certo. Poi sull'apprendistato, in realtà è un intervento che io ho più volte scritto, è un maquillage, è una forma di comunicazione al mercato del lavoro, perché in realtà di sostanza non c'è un grandissimo cambiamento. Si dice che le regioni devono proporre la formazione entro 45 giorni dell'attivazione del contratto, se no non è più obbligatoria la formazione regionale. Già prima c'era questa regola senza il tema la scadenza dei 45 giorni. E poi si fanno delle veramente minimali semplificazioni sul piano formativo. Il vero problema dell'apprendistato è che l'hanno riformato 11 volte in 3 anni, e quindi bisognerebbe vietare di riformare l'apprendistato. Allora il prossimo libro è Vietato, riformare di nuovo l'apprendistato. Avvocato Falasca, gliel'abbiamo già dato. C'è questa bella indagine, Nicoletta, di G Group, che ci racconta che cosa? Ci racconta che G Group ha realizzato un sondaggio su oltre 300 aziende per capire come le organizzazioni prevedono di cambiare nel corso del prossimo anno il ricorso alle tipologie contrattuali, ed emerge che se la maggior parte delle imprese non effettuerà grandi cambiamenti, tuttavia tra le aziende che hanno dichiarato variazioni nell'utilizzo dei contratti è da segnalare che aumenterà in particolare. State ben attenti. Il ricorso al contratto a tempo determinato. A seguire poi crescerà l'utilizzo del contratto di apprendistato, dei tirocini stage e della somministrazione a tempo determinato. Le imprese hanno dichiarato invece che prevedono di diminuire soprattutto il ricorso ad altre forme contrattuali come il contratto a progetto, le partite IVA, oltre al contratto naturalmente a tempo indeterminato. Tra l'altro la situazione delle partite IVA mi ricordava un po' quello che è successo nei giorni scorsi a Roma. C'è stato il grande sciopero dei lavoratori dei call center, no, avvocato Falasca? Esatto. Purtroppo noi dobbiamo fare una scelta, dobbiamo capire che bisogna fare una lotta senza quartiere contro il vero precariato, false partite IVA, false collaborazioni, falsi appalti che in quel settore ci sono, a volte si verificano, e invece bisogna incentivare, come fa il decreto 34, l'utilizzo di contratti regolari che danno tutela, cioè il lavoro a termine e l'apprendistato. Sono contratti flessibili, sì, regolari, sì, perché danno tutte le tutele, i contributi, il diritto alla retribuzione, le ferie e quant'altro. E noi invece siamo un po' strabici, diamo un colpo al cerchio e uno alla porta. Quindi bisogna continuare andando a colpire in quei settori. A proposito di partite IVA, voglio leggere alcuni messaggi che sono arrivati al 349-238-6666. Sandro da Verona ci scrive: la mia situazione lavorativa è la seguente, la mia partita IVA compie 20 anni proprio oggi e se le cose non cambiano a fine anno la chiuderò. Sandro ha risposto al nostro invito che chiedeva appunto di raccontarci o definiteci la vostra situazione lavorativa. L'hanno fatto anche su Facebook. Stefano ci scrive stimolante, meno male. E Francesco invece mancante. 800 24 00 24. A proposito di lavoro mancante, Adriana segnala invece sempre al nostro numero per gli SMS la situazione del suo compagno, che dice: può entrare in vigore tutto quello che volete, ma il mio compagno, che ha sempre lavorato a 44 anni a Cagliari, non trova uno straccio di lavoro. Purtroppo per certe zone territoriali molto disagiate, e qua il ministro del lavoro può fare ben poco. Maria Carla De Cesare, ti chiedo, abbiamo sentito appunto, Nicoletta ci ha letto questa questa rilevazione di G-Group che ha fatto un po' di previsioni su come potrebbero essere applicate le nuove forme contrattuali semplificate nei prossimi mesi, appunto. La tua previsione invece qual è, che conosci molto bene anche, soprattutto dal punto di vista normativo, il mercato del lavoro? Quando potremmo vedere qualche effetto in più? Perché stiamo commentando molto spesso i dati macro italiani, cioè questo PIL che è assolutamente fermo, disoccupazione molto alta. Qualcuno dice che qualche segnale di ripresa economica c'è, ma quale paese è un paese in cui c'è qualche segnale di ripresa che non si accompagna ad un aumento di posti di lavoro? Certo, è un paese infelice, è un paese che insomma, visto così, sarebbe pure destinato a rimanere infelice, però dobbiamo in qualche modo seminare qualche segnale di ottimismo. È vero che una buona legge, appunto, anche se è un'ottima legge o una buona legge, non può creare di per sé lavoro, può aiutare le imprese che in qualche modo possono essere, come dire, facilitate, non incentivate, ma facilitate nell'assunzione. Questo lo diceva anche Gian Piero Falasca prima, cioè che bisogna prima di tutto rimuovere quegli ostacoli normativi che come dire, rendono difficile anche chi ha buona volontà ad assumere. E poi l'altro grande capitolo è naturalmente, accanto ad una buona legge, accanto ad una legge che non costituisca ostacoli burocratici, è naturalmente cercare di mettere le imprese nella condizione di assumere abbassando il costo del lavoro, cioè intervenendo su tutti quegli oneri impropri che in qualche modo costituiscono una zavorra. Che possono essere, per esempio, tanto per farli capire ai nostri ascoltatori? Possono essere, diciamo, gli oneri che gravano sulle imprese, prima di tutto l'IRAP, che in qualche modo colpisce le imprese che hanno che hanno forze produttive, che hanno lavoratori, e quindi l'IRAP che è rimasta, che sono anni insomma che si dibatte su quello che sia, che possa essere il destino dell'imposta sulle attività produttive, in qualche modo deve assumere un peso un po' più ridotto. Questo abbattimento di circa il 10% non è ancora sufficiente? No, è stato promesso, in qualche modo si è iniziato a fare, ma viene ritenuto da tutti un segnale troppo debole. Andiamo ai nostri ascoltatori, certo. Ci chiama al nostro numero verde Franco, che da Livorno. Buongiorno. Livorno, della quale si è parlata tanto dal punto di vista elettorale in queste ore, certo. Franco, quel ribaltone clamoroso. Mi sembra anche a me. Vabbè, vedremo delle belle, ha detto qualcuno. Allora, la domanda ci è dica. Molto tecnica. Allora, un'azienda commerciale sul mare che d'estate assume un numero importante di stagionali. In quel caso lì, il 20% va comunque mantenuto come numero, oppure, siccome c'è delle deroghe in casi del genere? Quante persone ha intenzione di assumere, Franco, peraltro? Allora, si consideri che d'inverno siamo 10, si arriva anche a 22 d'estate. Ah, ecco, quindi oltre... Ma c'è una differenza di fatturato e di... Per fortuna, Franco, che almeno in questi mesi qualche cosa si muove. Certo, la ringrazio. Grazie a lei. Avvocato Falasca, lei che ha scritto proprio nella guida di oggi il capitolo dedicato al lavoro stagionale. Come possiamo aiutare Franco a gestire bene la stagione turistica senza problemi, naturalmente, con la legge italiana, e soprattutto cercando di dar lavoro a chi lo cerca in questo periodo e per fortuna trova qualche cosa ancora? Sì, intanto, insomma, avete Franco, potevate fare lo scoop della mattina, insomma, intervistandolo. Perché? Perché? Sul risultato di ieni, no? Ah, beh, c'era sì. Vabbè, infatti il commento gliel'abbiamo fatto fare. Allora, sui stagionali non c'è il limite del 20%, quindi c'è, diciamo, sono esentati dal tetto legale, e quindi la normativa tiene conto della specificità del lavoro stagionale. Il lavoro stagionale da sempre è proprio fuori dai vincoli ordinari sul lavoro a termine, quindi c'è un massima flessibilità da quel punto di vista, quindi non si deve preoccupare, può continuare tranquillamente. Ma esiste limite temporale per quanti mesi può assumere questo nuovo personale, appunto, che chiaramente è transitorio ed è esclusivamente stagionale? Cioè, qual è la caratteristica del stagionale? Lo stagionale, diciamo, è un'attività che è individuata dai contratti collettivi o in un decreto del 1923, e diciamo, se rientri in questa categoria hai contratti di durata molto breve che si ripetono negli anni nello stesso periodo, hai una sostanziale esenzione da tutti i limiti generali sul lavoro a termine, il limite quantitativo, i costi aggiuntivi, e niente, viene è fuori dalla quindi dal, diciamo che se in inverno Franco lavora con 10 dipendenti, in estate possono diventare anche 30 tranquillamente? Sì, perfetto. assolutamente non è cambiato. Andiamo a fare un paio di mesi a Livorno? Sì. Prima facciamo i mercati e poi pensiamo. D'accordo. Che dici? Okay. Prima il dovere e poi il piacere. Cuore e denari. I was looking for a job when I found this one. Don't need to work like you need to work. You look like you're under pressure. I was looking for a job when I met you. Cambia il lavoro, è proprio il sottotitolo dell'Instat Book che trovate oggi con il Sole 24 Ore, dedicato al Job Act e quindi a tutte le novità in arrivo sul fronte del lavoro. Nell'ultima parte del programma proveremo a fare un bilancio per capire quanto il lavoro ci ha cambiato. Spesso questo tipo di bilancio è di natura esistenziale, ci limitiamo a riflettere o a condividere con gli amici, con i colleghi di lavoro, con i nostri familiari la nostra insoddisfazione. Avrei voluto essere, avrei voluto diventare, mi è andata male, mi è andata bene. Noi oggi vogliamo trasformare questo bilancio in qualcosa di diverso e provare a farlo diventare un bilancio a favore del nostro benessere. Allora proviamo, partendo dal tipo di lavoro, a individuare che cosa ci dà, in che cosa ci rende migliore, quali competenze coltiva e contemporaneamente in che cosa ci limita, per trovare la formula di quell'equilibrio che, come dicevamo, è in fondo il segreto del nostro benessere. Vi abbiamo rinviato sulla pagina di Cuore Denari, dove potrete trovare un test che potete fare e commentare con i nostri esperti che ci raggiungeranno nella parte conclusiva della trasmissione per raccontarvi i risultati di questo test, se l'avete fatto, oppure per misurare un po' il vostro grado di soddisfazione e insoddisfazione sul vostro lavoro, ma cercando di contestualizzarlo, non lasciando quella parola in modo generico, non sono soddisfatto. Quindi vi aspettiamo. Allora, intanto altri ascoltatori hanno attivato la manina, composto il nostro numero verde 800 24 00 24, per intervenire sul tema di oggi: il pacchetto Poletti, prima fase del Jobs Act, la semplificazione dei contratti a termine, il numero di proroghe che si può fare di questi, il nuovo apprendistato e tanto altro ancora. Ma abbiamo prima fatto un commento, visto che nella guida che esce oggi con il Sole 24 Ore l'avvocato Giampiero Farasca ha curato il capitolo dedicato ai lavori stagionali. Avvocato Farasca, però in questo periodo si va anche in ferie e per fortuna ancora qualche azienda deve mandare però gli impianti a mille per tutta l'estate, non chiudendoli, non mettendoli in ferma, appunto, nonostante arrivi agosto e il solleone, e i dipendenti devono andare in ferie. Per chi volesse comunque mantenere sempre le stesse unità produttive e chiaramente cercare qualche sostituzione nel mercato del lavoro, in questo caso ci sono delle novità per i contratti? Sì, anche per le sostituzioni vale un po' quel regime agevolato del lavoro stagionale. Quindi la prima regola molto importante è che il tetto del 20% o quello diverso previsto dal contratto collettivo non si applica alle esigenze sostitutive. Quindi, diciamo, se un dipendente si ammala, oppure c'è una maternità, oppure insomma c'è un permesso per studio, il sostituto non rientra nel tetto massimo. E poi resta in vita in quel regime agevolato per le sostituzioni, per cui non si paga neanche la maggiorazione contributiva dell'1,4% che si paga per gli altri contratti a tempo. È una situazione diversa, no? Quindi non c'è l'esigenza di contenere l'abuso del lavoro a termine. E per questo motivo c'è una regola speciale. Va bene, allora noi andiamo intanto a sentire i nostri ascoltatori. Certo. Sandro ci chiama da Bologna e subito dopo andiamo a Piacenza perché c'è Antonio. Sandro, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'intervento, siete bravissime, bellissime, eccetera, eccetera, eccetera. Vi ascolto sempre volentieri. Sandro, chiami un po' più spesso però, non capisco perché abbia chiamato solo oggi, dopo 8 mesi che andiamo in onda insieme. Ma vi ascolto. Grazie, ci dica. Allora, no, io la mia è una semplice domanda, non vorrei nemmeno uscire fuori tema, ma va benissimo il decreto Poletti, va benissimo il cambiamento dei contratti, eccetera, eccetera, ma io voglio fare solo un esempio: sugli appalti della pubblica amministrazione in termini di servizi, quindi solo in termini di manodopera, che sono appalti di intermediazione di manodopera mascherata. Allora, il problema è, noi possiamo cambiare tutti quanti i contratti che vogliamo, vediamo però il terziario che partecipa a questi appalti ed è costretto a inserire dei contratti di lavoro a dei poveri lavoratori che si ritroveranno per sempre ad essere i lavoratori di serie B, i lavoratori... Cioè, ha un esempio allora, concreto, Sandro, tanto per farci capire, guardi, a parte il commento lei generico. Lei si faccia un giro per le RSA, le residenze sanitarie assistenziali dell'Emilia Romagna, del Veneto, della stessa Toscana, dei servizi di assistenza domiciliare che hanno un orario elastico per cui bisogna lavorare su circa 16 ore della giornata, dove i dipendenti pubblici naturalmente stratutelati non accettano mai di fare dei lavori spezzettati, vengono sistematicamente messi in appalto. Certo. Dove c'è invece una grande prateria di persone disposte. Grazie Sandro. Chi vuole rispondere? Avvocato Falasca, adesso stamattina, oggi parlare di appalti della pubblica amministrazione, peraltro proprio un momento caldo per discutere di questo argomento, ma lascerei appunto tutte le derive prese su questo tema specifico. Non saprei neanche io commentare. Con Sandro, perché ha detto bellissime e mi ha quindi escluso dal complimento, penso che abbia colto un punto importantissimo, cioè è quello che dicevo prima, quello è dietro il tema appalti, si celano tantissime irregolarità, ma non parlo di irregolarità penali, parlo del fatto che lavoratori vengono gestiti come dei somministrati. Anni fa, in un famosissimo ospedale del centro nord, delle agenzie per il lavoro impugnarono il bando per gli infermieri sostenendo che era somministrazione irregolare e il TAR diede ragione. Perché appunto il lavoro per somministrazione è tipicamente quello che fa un'agenzia interinale, esatto, no? Esatto, ecco. Quindi purtroppo negli appalti oggi in pubblico e privato, non voglio generalizzare, ma secondo te è un'area calda, un'area di grandissima criticità del lavoro. Quindi noi a volte ci preoccupiamo troppo di ingabbiare il lavoro a termine, l'apprendistato e quant'altro, e ci dimentichiamo che lì dentro ci stanno centinaia di migliaia di lavoratori i cui diritti non sempre vengono trattati per bene. Speriamo che ci sia una terza fase di Jobs Act dove intervenire anche in questo campo. Mi pare che al momento non ci sia nelle intenzioni del ministro, del governo, a meno che non ce l'abbiano detto, appunto, intervenire in questi campi. Anche se la delega è molto ampia. E quindi è possibile che il governo possa intervenire. Naturalmente sta anche un pochino agli organi di informazione, all'opinione pubblica, far emergere situazioni di questo tipo. Nella sanità, per esempio, ma sia nella sanità pubblica che nella sanità privata, naturalmente il ricorso agli appalti è molto importante, come diceva l'ascoltatore. Questo pone problemi dal punto di vista dei lavoratori, ma anche dal punto di vista dell'utente, perché poi non si sa a chi risponda quella persona che magari ha fornito un servizio che non è esattamente confacente alle esigenze del paziente o dell'utente. Dove andiamo adesso? Allora, avevamo un appuntamento con Antonio che vogliamo rispettare. Ci chiama da Piacenza all'800240024. Andiamo a sentire che cosa ci racconta. Buongiorno Antonio, benvenuto. Buongiorno signora, prima di tutto vorrei ringraziare della compagnia che mi fate. Quando sono in Italia vi ascolto sempre, dalla mattina alla sera. E perché? Perché lei quando in Italia, quindi lei ci dice che lavora all'estero, dove? Sì, in questo momento sono a Piacenza, ma sono residente a Torino e lavoro una vita francese. Perché? Ecco il mio intervento. A proposito del settore trasporti, per esempio, lei quando viaggia in autostrada da qualsiasi parte d'Italia vedrà bene che è pieno di camion extracomunitari. Allora io vorrei sapere una cosa, vorrei chiedere allo start che avete in linea. Sì. Io mi sono ritrovato a 53 anni senza lavoro, sono dovuto andare all'estero a lavorare e vedo che qua comunque i camion continuano a girare, i posti di lavoro ce ne sono tantissimi, ma li danno a tutti quelli che lavorano all'estero, cioè agli extracomunitari, con ditte extracomunitarie che operano nel territorio nazionale nostro. Quindi io vorrei capire due cose: come fare per combattere questo, se ci sono dei controlli, e soprattutto le tasse in Italia, chi le paga? Perché io per esempio adesso le tasse le sto pagando in Francia, le ditte le ditte extracomunitarie le pagano ai loro paesi, qui in Italia tutti lavorano ma non pagano nessuno tasse. alla fine. Antonio, allora adesso io tra l'altro che come dire faccio anche dei gran viaggi, Nicoletta lo sa, in autostrada 1 a 14 sono proprio reduce questo fine settimana, tutti questi stranieri alla guida dei nostri camion non li vedi, non li vedo, forse faccio come dire un tratto, andrai nei giorni sbagliati. Vado nei giorni sbagliati, non lo so. Maria Carla ha ragione, guardi. Antonio? Purtroppo sì, diciamo che qui ci si scontra da un lato con una legislazione comunitaria che è quella, come dire, dell'apertura. Come loro vengono, possiamo andare anche noi all'estero, per cui adesso noi questo qua lo guardiamo molto raramente come un'opportunità, ecco, ma in questo caso l'ascoltatore si è sentito costretto ad andare in Francia. Però è anche vero che talvolta, al di là appunto delle facili prese di posizione un po' populiste, insomma, sull'idraulico polacco, è vero che si instaurano delle vere e proprie forme di dumping. Cioè, come dice l'ascoltatore, ci sono moltissimi autotrasportatori rumeni che sono disposti a lavorare a cifre molto più basse di quelle che vengono pagate agli pattuite contrattualmente, certo, diciamo, con gli italiani, certo, ecco. Questa è una forma di dumping sociale a cui effettivamente occorre prestare attenzione non solo nell'autotrasporto ma per esempio nell'edilizia. Vabbè, come dire questi lavoratori vengono in Italia ad un costo inferiore, anche è vero che molte aziende vanno all'estero per ottenere gli stessi vantaggi, parliamo della delocalizzazione degli impianti produttivi, per cui se vogliamo guardarla da tutti i punti di vista, non so, Maria Carla. Certo, è difficile fare un bilancio. Naturalmente nell'edilizia si è tentato di fare qualcosa con una limitazione, diciamo, delle collaborazioni, dei part-time, con un controllo sulle partite IVA, ma è chiaro che tutto questo, come dire, non basta se non c'è davvero un'attenzione sociale anche al valore sociale del lavoro, alla regolarità contributiva, che dovrebbe essere un po' il patrimonio di tutti. Esatto. Allora, è tempo di andare in onda il traffico. Vedi, come ci richiama l'ordine? Subito, anzi, possiamo chiedere ai nostri ascoltatori: volete anche voi provare a lanciare il nostro GR, il traffico? Perché da un po', no? Che facciamo un casting. Ecco, buttare lì questa proposta. Purtroppo non vi possiamo assumere. Esatto. Formuliamola per bene. Non possiamo assumervi con nessun tipo di contratto, però insomma, su base volontaria, se volete. Un premio. Un piccolo premio, come l'ascoltatore di Cuore e Denari. Cuore e Denari. Mi ha preso di punta e credo di non sopportarlo più. Mi spiace tanto, ma devo badare agli affari miei adesso. Che ti è successo? Il capo mi ha bocciato l'articolo. In pratica devo ricominciare tutto da capo. Non ci posso credere, sono di nuovo al punto di partenza come 3 giorni fa. Siamo tornati insieme, oggi i nostri ascoltatori ci stanno mandando tantissimi messaggi e ci siamo in un certo senso, non dico arenati, ma concentrati sugli autotrasportatori, e arrivano tantissimi messaggi che confermano quello che ci ha raccontato il nostro ascoltatore, come fa Pasquale, e dice che i trasportatori sono al 99% rumeni o comunque dell'est Europa. Allora, qua il tema è anche noi diamo un po' il nostro contributo affinché, come dire, queste persone abbiano delle opportunità, non so, veramente, qua è un tema che si presta a considerazioni positive, negative, al qualunquismo, però direi che possiamo rimanere in Italia, limitiamoci a commentare i provvedimenti presi dal Jobs Act, anche perché c'è questa guida del Sole 24 Ore questa mattina che li riassume di nuovo tutti, ma perché non... Quando è che però si vedranno i risultati? Lo diceva di questi... appunto con... qua non lo so, abbiamo fatto qualche previsione con Maria Carla De Cesari, sentiamo il giuslavorista che ne pensa, avvocato Falasca. Secondo lei si cominciano già a vedere? Beh, intanto... Dalle percentuali che abbiamo dato la settimana scorsa dell'Istat direi no. Però siccome è tutto maggio che è partito, certo. Ci vuole una fase di incubazione, diciamo, tra 6 mesi e un anno. È solo un asterisco. Attenzione che la normativa vieta di pagare di meno gli stranieri. Scusate su quello che abbiamo detto prima, i rumeni sono comunitari, ma comunque insomma, se pagano di meno stanno violando la legge. Tornando a questo, io penso che almeno tra i 6 mesi e l'anno siano necessari, perché sulle precedenti riforme si è visto proprio che questo è un po' il periodo di incubazione. La Fornero ha creato diciamo, una serie di guasti che si sono visti a partire da qualche mese dopo e si sono protratti poi tutto l'anno successivo. Vedremo, io devo dire la verità, il primo impatto che vedo però è comunque positivo, cioè le aziende che oggi non devono scrivere quel poema della causale hanno un po' di paura, dicono ma sarà vero, cioè, è veramente così, perché in effetti la semplificazione è notevole, è chiaro, è la classica rondine che potrà fare o non fare primavera a secondo. Ma quindi nel frattempo, visto che non c'è più l'obbligo, comunque qualche azienda la scrive ancora, avvocato Falasca, mi ricordo allora, male se lei che ce lo raccontava. Sì, del decreto tutti la scrivevano ancora perché non si fidavano. Ora che è convertito, diciamo, nessuno la scrive più. In alcuni casi eccezionali è rimasto la facoltà, cioè per diciamo prime casi di sostituzione stagionale, allora va comunque messa. Ma diciamo no, le aziende l'hanno superato questo problema. Sa, poi siamo un paese di avvocati. Già rullano i tamburi dell'impugnazione in Corte di Giustizia Europea della normativa, perché secondo alcuni la causale sarebbe richiesta dall'Unione Europea, cosa non vera, ma insomma c'è questo approccio delle aziende, prima era ma sarà vero, lo converteranno, ora l'approccio è ma i giudici cosa ne penseranno, quindi non aspettiamoci un decollo immediato, però questo tipo di riforma va nella direzione che tutti dovremmo chiedere per ogni aspetto del lavoro, cioè semplificare e ridurre gli adempimenti che non danno tutele. Andiamo a Chieti, c'è Giuseppe, buongiorno. Benvenuto. Salve, buongiorno, grazie per avermi ospitato questa mattina. A proposito del poema sulle causali, come diceva poc'anzi l'avvocato, e sulle tutele, brevemente la mia storia. Io per 6-7 anni ho lavorato per una onlus e lavoro tuttora per una onlus. Nel corso degli anni questa onlus si è strutturata e ha costituito una cooperativa sociale alla quale ha demandato, ha distribuito tutti i contratti che nel frattempo aveva in essere. Questa cooperativa, da appena costituita, ha fatto un sacco di assunzioni a tempo indeterminato. Quando è arrivato il mio momento di passare sotto la cooperativa ha pensato bene di farmi il contratto a tempo determinato e contratto a termine di un anno. Quando è stato fatto questo contratto? All'inizio dell'anno, quindi questo ha usufruito della legge Fornero e poi adesso degli ulteriori vantaggi della Job Act. Perché non c'è un apparente motivo, cioè il fatto che la cooperativa abbia potuto farlo allora e dopo senza una causale è discriminante nei miei confronti, perché io ogni anno avrò per 3 anni, sapendo perfettamente che dopo 3 anni la cooperativa sarà costretta, fra virgolette, a assumermi, però per 3 anni io comunque avrò la stessa qualifica professionale, non avrò scatti di azienda, non fa nessuna crescita, non faccio nessuna crescita e comunque avevo sempre questa spada di Damocle per il fatto che la cooperativa potrebbe non rinnovarmi il contratto. Quindi insomma Giuseppe, il tema è capire perché se ha fatto bene la cooperativa sociale, adesso Maria Carla devo andare a Falasca, aveva l'obbligo di inserire la causale, visto che questo contratto è stato siglato all'inizio dell'anno, a gennaio, quando ancora c'era tutt'altro regime? Direi di sì. Direi di sì, che appunto questo contratto stipulato a gennaio sta sotto le regole della legge Fornero, come lo stesso ascoltatore riconosce. Nel caso di rinnovo, beh, allora come dire, le regole cambiano e diventano quelle del decreto legge 34 convertito nella legge 78. Lui però dice che non è stata messa la motivazione specifica per la stipula di questo contratto a termine. Giuseppe, ho capito male, tanto per concludere con lei. Non abbiamo più. Pronto, mi sente? Sì. Ecco, probabilmente l'hanno anche messo una causale generica. Il problema è che dal passaggio dalla Fornero alla Renzi, alla legge. Sì, alla Poletti, sicuramente la mia situazione ha avuto un peggioramento. Ecco, in questo senso. E le ripeto, questa nuova normativa dà la possibilità alle aziende, sicuramente, di fare contratti a tempo determinato che servono per migliorare, per semplificare e per migliorare la propria situazione. Ma da un punto di vista del lavoratore, ecco, io non mi sento affatto tutelato da questa nuova normativa. E allora, Giuseppe, intanto lei comunque sta sotto il regime della precedente, almeno per un po', avvocato Falasca. Dopo, può tutelarsi l'ascoltatore? Secondo me, Giuseppe ha avuto il primo contratto e quindi era privo di causale anche quello, forse, come ha detto no, l'ha firmato a gennaio. Ah, Eh no, ma la Fornero consentiva di non metterla a causare per il primo contratto. Ah, ecco, per il primo. Però c'è un punto decisivo. Giuseppe dice: mi sento meno tutelato dalla causale. Questo è importantissimo che bisogna capire. La causale non tutelava nulla, perché ci volevano 5 minuti a scriverla, gli abusi c'erano e non c'era nessun limite. E i giudici ci si divertivano dentro. No, e l'azienda cosa faceva? Qualche azienda diceva: sai che c'è, rischio per rischio, io uso la collaborazione a progetto, che a parità di rischio mi costa molto di meno. La scommessa di oggi è indirizzare l'azienda a usare contratti regolari e dirgli: hai uno stock di quantità e di tempo, 20% e 36 mesi, e poi assumi. Se Giuseppe sta dentro quella cooperativa per 3 anni, avrà il tempo di farsi conoscere e di convincere l'azienda a stabilizzarlo. È più difficile, cioè le norme come quella precedente illudono di dare garanzie, ma poi l'effetto è quello di allontanare le persone dal lavoro. Avvocato Falasca, nel frattempo sa che le dico che noi facciamo un bel test. Sì, anzi lo suggeriamo anche al dottor Falasca di andare sulla pagina di Cuore Denari, dove abbiamo scippato, è il termine proprio giusto, il test che ha avuto un sacco di click sulle pagine sul sito del Sole 24 Ore. Insieme a noi oggi Massimo Esposti, collega del Sole, Gianfranco Gherardelli, psicologo e psicoterapeuta, che sono un po' le anime di questo test che ha dato grandi soddisfazioni. Massimo, intanto... Grazie avvocato Falasca. Vada a fare il test, avvocato. Poi ci dica se l'ha superato. Poi la interroghiamo, Buona giornata, grazie. Buongiorno. Senza ansia però, Senza ansia. Ma no, mettiamogliela un po', va, l'avvocato Falasca. Dicevo, questo test di cui parleremo oggi, ma anche vogliamo coinvolgere le persone che il test magari non l'hanno fatto e non hanno tempo di farlo, dicono: ma che cosa mi serve un test? Massimo. Assolutamente, ho agito un po' da cronista dell'ansia, nel senso che ho raccolto tutte quelle situazioni tra amici, conoscenti, legami professionali, che sono l'espressione del male dei nostri tempi, quello dell'ansia legato soprattutto al lavoro. E di questo parleremo nell'ultima parte di Cuore Denari, insieme anche al dottor Gherardelli, psicologo e psicoterapeuta. Salutiamo Maria Chiara. Certo, Maria Carla torna in un'altra puntata senz'altro. Grazie mille, a presto. Buona giornata. Grazie. Cuore e Denari. La possibilità di scegliere il lavoro per il quale si sentono portati o che amerebbero fare. Molto spesso bisogna fare buon viso a cattivo gioco e imparare ad adattarsi. Ma indipendentemente dal grado di soddisfazione o di insoddisfazione, una cosa è certa: il lavoro che facciamo ci cambia, sviluppa capacità, ne addormenta altre. Forse un po' come succede con l'attività motoria, anche il benessere psicologico deriva dall'equilibrio. In altre parole, come chi corre deve comunque pensare a sviluppare anche gli altri muscoli oltre a quelli delle gambe, chi fa un determinato tipo di lavoro deve o dovrebbe comunque cercare di stimolare e coltivare anche quelle competenze che all'apparenza non servono nello specifico per svolgere la propria attività, ma che sono funzionali al benessere. Insomma, fare un lavoro di compensazione, di pieni e di vuoti. Ne parliamo oggi con Massimo Esposti, collega del Sole, e con Gianfranco Gherardelli, psicologo e psicoterapeuta. Massimo, abbiamo invitato i nostri ascoltatori a fare il test che hai ideato insieme al dottor Gherardelli, che dicevamo ha avuto un grande successo di click. Tu hai detto che ti sei un po' calato nei panni del cronista dell'ansia. Esatto, è stato molto interessante perché abbiamo cercato di raccogliere un po' le sensazioni di quello che, come dicevo, è un po' il male di questi anni, e in effetti i risultati sono estremamente interessanti dal punto di vista proprio comunque delle persone di mettersi alla prova, di provare con un test. Abbiamo fissato 12 domande, 12 mm-hmm. punti, per poi arrivare a dei profili. È chiaro che, come tutti i test, è opinabile, ovviamente. Sì. È un po' come quando si va dal medico, no? Parlate di medicina. Se il medico ci guarisce, allora è bravissimo. Se non ci guarisce, non è più così bravo. Ecco, da questo punto di vista, calarsi in una riflessione è estremamente interessante, perché prima di tutto l'abbiamo fatto noi, no? su noi stessi, questo test, e abbiamo avuto dei risultati interessanti. Dottor Gherardelli, conoscere le proprie capacità di adattamento sicuramente rispondere in base alle proprie risorse personali può essere, devo dire, il primo passo di autoterapia, no? Questo è il pensiero di fondo alla forza del test che avete proposto e forse anche un po' il segreto del suo successo, perché ci lamentiamo, è vero, ma vorremmo avere anche gli strumenti per provare a uscire da questa condizione di malessere che descriviamo generalmente come insoddisfazione oppure come ansia o come stress, tutti termini che se non vengono in qualche modo riempiti diventano troppo generici per darci il là e quindi ricominciare. Sì, esatto. Intanto buongiorno a tutti gli ascoltatori e bravi quelli che hanno fatto il test, mi hanno dato la possibilità di validarlo in diretta. È un test che, diciamo, è stato un divertimento farlo, vedere i risultati e che aiuta un po' a conoscere delle dinamiche di noi stessi. Non è che è un test che ci può rivelare il santo graal del futuro lavoro, eccetera, eccetera. Ci guida all'interno di tre profili che poi andremo a spiegare e sono, diciamo, i tre profili che su quello che è l'esperienza mia clinica, di lavoro, di persona comunque che sono anche riscontro, esatto, sul campo, incontro più di frequente. E vogliamo descriverli questi profili così chi non ha fatto il test non si sente escluso? Sì, anche perché il test in effetti ha un sistema di punteggio dove se uno è indubbiamente quel profilo non riesce a vedere gli altri due. Comunque gli abbiamo dato tre nomi abbastanza provocatori, nel senso che è uscito un profilo sfidante, rassegnato e perfezionista. Poi ti dico come sono uscito io non l'ho fatto invece, vedi, ancora devo andare. Ma sarai sicuramente o sfidante o perfezionista. Ma perché, scusa? Così intuisco. Adesso sentiamo Massimo, che mi conosce un sacco di anni. Allora, sentiamo giusto due cose tecniche, no? I nomi che abbiamo preso riguardano un po' la tipologia della media delle persone in funzione di quello che la teoria cognitiva dà sui profili di personalità, che è una teoria ovviamente più complessa, più ampia, certo, eccetera, eccetera. Lo sfidante fa riferimento a una struttura di personalità che ha come elementi caratterizzanti nel quotidiano spunti fobici e i temi famosi del controllo. Una brevissima premessa. Non parliamo di clinica con questo test, perché nella clinica abbiamo a che fare con lo scompenso, quindi anche quando parliamo di ansia sul lavoro, non è l'ansia da scompenso, attacco, certo, di panico e quant'altro si sente. Idem vale per i profili, è un gioco che ci ha permesso e permette l'ascoltatore di riconoscersi e di essere guidati in un processo di conoscenza per del poter sé. Poi fare qualcosa, esatto, no? E questo è un po', lei dà anche delle chiavi, esatto, di, guarda, esatto, visto che lettura. Oggi è una giornata triste sempre per tutti, il lunedì, no? Una delle domande è proprio la domenica pomeriggio cominci a sentirti triste, sei un po' abbacchiata, ecco. Io sì. Alle 19 vado un po' in crisi. Benissimo. Infatti io alla domenica sera a casa nostra è sempre appuntamento per tutti gli amici, riusciamo a essere dagli 8 ai 12 in piedi, in cui tutti quelli che si sentono un po' con il lunedì terapia che gratta alla porta, allora mangiamo insieme, chiacchieriamo, cioè cerchiamo un pochino di un allungamento dell'idea io di festa. Così alla domenica pomeriggio cucino come una pazza. Infatti mi fa abbiamo molto identificato piacere. Un fantastico profilo che si chiama rassegnato, sì, che fa un po' riferimento al depresso tra virgolette, insomma, sì, dove il tema quotidiano di una persona che inizia ad angosciarsi nel weekend, che normalmente invece è atteso da chiunque, è questa emozione, sentimento di inadeguatezza che segue poi l'intera vita, no? Sociale e professionale. Il terzo profilo è quello del perfezionista, che diciamo è l'ossessivo di turno, che ha il tema del controllo associato al giudizio, quindi queste persone che hanno spesso bisogno di riconoscimento, no, da, sì, parte degli altri. E poi vabbè, pian piano lì. Quali sono le due domande che una l'ha già suggerita Massimo, che fa riferimento a quella sorta di malessere che prende quasi tutti alla domenica sera. E invece lei, dottor Gherardelli, quali domanda vorrebbe rivolgere ai nostri ascoltatori per invitarli a chiamarci e a misurarsi con noi? Secondo me, chi ha esigenza di cambiare lavoro piuttosto che vita e in qualche modo non sa da che parte cominciare nemmeno a pensarlo, perché in realtà cambiare è assolutamente alla portata di chiunque. Quello che diventa difficile, secondo me, è l'aspettativa che uno ha e la conoscenza delle proprie risorse, valori aggiunti, ma anche limiti, per poi poter affrontare un cambiamento, qualunque esso sia. 800 24 00 24, le aiutiamo a cambiare oggi? Cerchiamo un candidato che come sia lì. A Milano, Sperem. Sperem, perché a Pavia, come dite? Noi non diciamo, non cambiamo mai. A Pavia non sperano. Massimo. Ma sicuramente, perché questi 12, potremmo chiamarli link mentali, no? Servono un po' a aprirsi. Tra l'altro, un'altra domanda mi ha colpito molto per quanto riguarda ovviamente poi il flusso di risposte arrivato, è quella di... Parliamo dei problemi in casa, tu dicevi facciamo la cena alla sera della domenica così prolunghiamo un po' l'idea di festa e ci scarichiamo dalla tensione dell'attesa della ripresa lavorativa del lunedì. Ecco, da questo punto di vista spesso ci si chiude in se stessi, almeno da quello che ho raccolto, ripeto, come non sono un medico specializzato in questo campo, ma ho fatto appunto il cronista dell'Ansia per una volta, e ci si chiude in se stessi, invece spesso condividere anche situazioni di disagio può essere importante, ecco, diventa una buona terapia veloce, insomma. Sì, un altro aspetto, agganciandomi a quello che dice Massimo, è di non eccedere, cioè ovvero di non arrivare a casa poi e, tra virgolette, vomitare tensioni, stress e ansie, perché ovviamente le persone del nostro della nostra famiglia, marito, moglie, familiari, genitori, sono i primi catalizzatori poi di queste dinamiche di angoscia, di stress profondo. Allora, volevo leggervi un messaggio di un ascoltatore, autrice, non lo sappiamo, non sapremo mai, che ci racconta che ha provato a compilare il test. Ritiene che vada bene solo per persone che lavorano poco, tra parentesi, con orari definiti. Sarà per quello che si sentono stressati? Dottor Gherardelli. può essere tutto. Un test ovviamente così può essere interpretato in infiniti modi. È ovvio che più che lavorare poco, secondo me, la persona che ha equilibrio, quindi che ha una buona dose di conoscenza del sé, di lavoro, di soddisfazione professionale, di una capacità di avere una propria vita personale fatta di hobby, di passioni che io chiamo progetti di vita, allora probabilmente può, tra virgolette, rispondere bene a questo test. Dico tra virgolette perché in realtà non c'è una risposta vera, una risposta sbagliata, un profilo migliore di un altro, è proprio una guida in qualche modo. Però Massimo, ci sono dei posti dove si sa che si lavora meglio che in altri. Il lavoro può essere non darci soddisfazione, diverso da quello che vorremmo, ci possono essere dei problemi con il nostro datore di lavoro, con i nostri colleghi, ma ci sono sicuramente delle situazioni in cui noi siamo portati a dare il meglio, a sentirci meglio, diciamo così. Sì, guarda, siamo un po' travolti sempre da tutte queste classifiche, i luoghi più ambiti o dove si lavora meglio. La sintesi che si può fare di tutte queste, appunto, graduatorie è quella che i posti dove la gente ritiene di trovarsi meglio sono quelli che offrono una formazione continua. Cosa significa? Significa far sentire il dipendente sempre sul mercato, cioè sempre aggiornato. Qual è la frustrazione oggi di tutti? Si parlava di voler cambiare lavoro. Già, ma se volessi cambiare lavoro, dove potrei andare? Chi mi prenderebbe? Ecco, la possibilità di scrivere un curriculum e di essere chiamato, perché trovi aziende, società, professionisti che sono interessati al tuo profilo, diventa un elemento cruciale. Un altro aspetto è quello invece di come ci si sente, perché qualsiasi lavoro, anche il più bello del mondo, può sembrarti negativo se tu sei negativo in tutto. E ci sono degli atteggiamenti che ci portano a vedere la realtà più nera di quella che è, dottor Gherardelli. Ad esempio, identificarci totalmente col lavoro? Ma sì, allora, intanto bisogna dire che ultimamente, cioè, questa crisi finalmente, secondo me, sta un po' facendo scoppiare questo mito dell'avere, dell'essere, eccetera, eccetera. Cioè, le persone sono troppo abituate a misurarsi in funzione di quanto guadagnano e di un riconoscimento sociale nel lavoro. Una persona vale non per quello che guadagna, non per il lavoro che è, ma per quello che è. Ed è per questo che poi viene apprezzata in un contesto lavorativo e sentivo prima l'intervento anche dell'avvocato sul fatto del contratto, non contratto. Se io lavoro bene, sono positivo, cioè io sfido a trovare un imprenditore che alla fine dell'anno si diverta a licenziare i dipendenti che lavorano bene, sono positivi. È ovvio che diventa poi magari complesso e difficile, però è questo il punto, cioè di avere un buon equilibrio pensando anche alle proprie risorse. Il test questo vuole in qualche modo consigliare. Se io non ho pazienza, è inutile che vado magari a cercare un lavoro dove la caratteristica fondamentale è la pazienza, ma se io non lo so perché non ho una conoscenza dei miei limiti, dei miei valori aggiunti, mi sconterò in diretta con questo tipo di lavoro. Quindi al di là del test, la psicologia in generale aiuta proprio a conoscere questo tipo di elementi. Allora possiamo magari dare un suggerimento a questa mamma che ci scrive su Facebook, è una mail molto lunga, io ve la sintetizzo. Suo figlio, classe 76, quindi 38 anni, plurilaureato, plurimasterizzato, ottima conoscenza di molte lingue, fra cui anche quelle slave, non riesce a trovare nessun tipo di lavoro. Allora, chiaramente è ovvio che io mi scuso per qualunque tipo di giudizio che possa uscire da questa trasmissione, che noi ne vogliamo dare, quindi giudichiamo da quello che ci scrive questa mamma. Sì, la prendiamo a pretesto per dare un'indicazione a chi, pur con tante possibilità da offrire, con tanti doti ed esperienze, non riesce a trovare lavoro. E insomma, è un po' quella situazione in cui tutti mi rifiutano. Ecco, anche cosa in questo caso bisogna un po' spostare il punto di osservazione. Sì, diventa difficile ovviamente solo su quello che scrive dare un consiglio, perché giustamente rischia di essere visto come giudizio, non vogliamo assolutamente farlo, lo ripeto. Però mi piacerebbe sapere questo ragazzo che cosa è che ha oltre a questa laurea, a questa conoscenza delle lingue, cioè ha qualche facoltà sua, qualche passione, qualche passatempo, una qualunque cosa che lo possa tenere collegato in maniera proprio interattiva con un mondo che ha un sacco di opportunità. Cioè ci sono delle passioni, a me viene degli sport tipo il golf, non perché lo pratichi o altro, comunque che sono notoriamente degli aggregati in cui si conoscono un'infinità di persone e da lì poi maturano delle realtà anche imprenditoriali. Cioè io ho una competenza, gioco con quello che ne ha un'altra, si decide di fare qualcosina. Il discorso Onlus che sentivamo prima sarà nata da una passione, è diventata una cooperativa, avrà avuto un luogo di innesco. Cioè se io sono bravissimo e Massimo è bravissimo, ma io sto a Pavia e lui sta a Cagliari, sì, e non ci incrontiamo in nessun modo, magari non nascerà nulla, no? Quindi bisogna cercare anche di trovare, secondo me, dei luoghi, dei setting che possano agire come innesco per una serie di cose. Se io sono bravissimo ma vivo in casa con i genitori... Cosa mi colpisce molto? La rassegnazione di quello che scrive, che sembra la madre che porti la rassegnazione del figlio, e questa famiglia che alla fine si capisce è rimasta l'unico sostegno anche economico, penso, per questo ragazzo, che se non lavora forse anche loro potrebbero pensare aiutiamolo magari a avviare un'attività in proprio, perché a 38 anni lingue in questo momento, poi sarà che io veramente avverto sulla mia pelle questo problema, non parlandole bene, in realtà secondo me questo è un valore eccezionale, mi sembra abbastanza strano con anche le aziende insomma che adesso internazionalizzano sempre di più, che non ci sia nessuno disposto ad accogliere questo curriculum, forse lo si manda semplicemente ai posti sbagliati. È difficile anche immagino per i genitori aiutare un figlio che ormai è un uomo, perché ha 38 anni, a uscire da questa situazione che è stagnante, proprio perché nonostante i vari tentativi il ragazzo non ha trovato evidentemente qualcosa che lo motiva a fare di più, anche a cambiare, perché lei dottore parla di cambiamento, cercare le relazioni, il golf, ma lei mi insegna che quando una persona è molto scoraggiata e soprattutto senza lavoro, trovare dei luoghi di contatto diventa una fatica, e anche tante volte non è possibile farlo. No, poi ci si presenta col biglietto da visita di dire io non sto facendo niente, certo, per cui anche venire un po' allo scoperto. È quello che dicevamo prima, cioè io va a finire che mi misuro su quello che socialmente oggi viene riconosciuto. Quindi se ho un lavoro vengo, come dire, conosciuto in un certo modo, se non ce l'ho in un altro. Invece no, cioè ci deve essere un ritorno a mostrarsi per come si è e bisogna essere apprezzati per quello che si è. Quindi in una ricerca di un lavoro non bisogna vergognarsi di non avere un lavoro, di averlo perso. Cioè in questi anni ho conosciuto e ho aiutato tanti pazienti, imprenditori che sono magari falliti, che hanno avuto problemi. A rimettersi tutti... un po' in gioco. Sì, sì, sì. Il comune denominatore è stata la curiosità, la ricerca, l'esplorazione. Se cessa questo, cessa tutto. Allora, noi intanto invitiamo i nostri ascoltatori a fare questo test, a riconoscersi in una delle tre categorie e a trovare magari qualche indicazione per uscire, no? Stress da ansia, ansia da stress, un circolo vizioso, non virtuoso. Lo troviamo sul sito del Sole 24 Ore, Massimo, perché c'è chi ce lo sta chiedendo. E anche sulla pagina di Cuore Denari. Perfetto, ottimo. Grazie Massimo Esposti. Grazie a voi. A Gianfranco Gherardelli. Grazie a voi. A Carmelo Lauricella. Sì, a Laura Vanossi, Marco Lombardi. Bardo. A grazie Deborah, a noi. A Nico. Certo. Dai, a domani. Cuore e denari.